non proprio una festa il passaggio della fiaccola olimpica verso Beijing. Londra non ha fatto distinzione tra sport e politica e i 50 chilometri di quello che secondo lo slogan doveva essere il percorso dell'armonia sono stati invece un crescendo mozzafiato di tentativi da parte degli attivisti pro diritti umani di fermare la torcia infuocata. Partenza sotto la neve dallo stadio di Wembley, a Notting Hill già il primo tentativo di sottrarla dalle mani di uno degli 80 testimonial. Poco più in giù qualcuno cerca addirittura di spegnerla con un istintore, altri si buttano come ostacoli umani sul percorso. A correre la staffetta è anche l'ambasciatrice cinese Fun Yin, costretta a riparare a Chinatown. Ma è a Downing Street, davanti al primo ministro Gordon Brown, che esplode la protesta dei manifestanti pro-Tibet. 2000 poliziotti hanno cercato di tenerli separati dallo schieramento contrapposto degli studenti nazionalisti cinesi. Alla fine, 35 arrestati, con la torcia che raggiunge l'arena dell'O2, accendendo nuova tensione sulle Olimpiadi cinesi. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra.